La Anthony Perkins Productions presenta Harry Burr, 45 minuti ai margini dell'arte. Ero parroco da 30 anni a Montelice. 3 ore di mulo per arrivarci. 7 case, uno stagno, un canale e tutto intorno la guerra aveva bruciato anche i sassi. Il nuovo curato di Braino era venuto su a fare conoscenza con me. Mi aveva chiesto subito un bel mucchio di cose. Ballo, comunisti, moralità, eccetera. E così? La ringrazio delle sue informazioni, signor parroco. In ogni modo, io credo che le farà bene cominciare il suo ministero in un paese di montagna su per giù come questo qui. Certamente, ma bisognerà darsi molto da fare. Cercare mezzi nuovi. È naturale. Ogni tempo richiede i suoi metodi, io credo. Lei è quello che c'è di più giovane al mondo? O forse di più vecchio, chissà. Perché o di più vecchio? Ma è la vecchia storia del medico condotto. Arriva qui appena laureato, si immagina di fare chissà che. Gli piace anche di fare un po' il martire. Si mette a girare tutta la montagna a cavallo del muro, entra in tutte le stalle e così via. E finalmente si accorge che non ci sono che casi di artrite, sì. Sciatiche e artriti. E allora non gli resta altro che prescrivere cure di occhio. E ingrassare. Eh sì, come me. Oh, per carità, non volevo mica dir questo. Oh, so benissimo quello che lei pensa. Ma è mai stato lei in un paese di montagna come questo qui? Isolato per un mese di pioggia continua. E magari per 2 mesi di neve. Ma neve, capito? Non come quello della città o della valle. Vuole dire? Come è capitato già a lei? Per più di 30 anni. 30 Natali, si rende conto? E che cosa succede allora? Niente. Niente, solo che se nevica e piove e nevica. E la gente sta tappata nelle stalle, chiusa, muta, a guardare la pioggia e la neve insieme ai muli e alle capre. A guardare e a pensare, per una speranza o senza, dipende da noi. Beh, ora debbo andare. Lieto per questo incontro. Arrivederla, padre. E mille grazie ancora di tutto. Arrivederci e ritorni se vuole. Ma che non succedesse niente non era vero. Almeno per me. La vecchia era sempre là. Si chiamava Zelinda. Le era rimasto soltanto con la capra. Già da tempo non parlava più nessuno. Ma a me qualcosa aveva ancora da dirle. E non si decideva. Quel giorno, allora, mi decisi io. Forse fu per il pretino di Braino. Allora, Zelinda. Sono 3 mesi che quando passo di qui la sera voi mi guardate e poi non mi dite niente. Allora. Mi scusi, reverendo, tanto è inutile. Sono sciocchezze, nient'altro. Ma se avete qualcosa da dirmi, ditemelo, mio Dio. Volevo domandare solo questo. Su, fuori. È vero o non è vero che anche voi, sì, la Chiesa, ammettete che due che si sono sposati possano dividersi? Ma vogliamo scherzare, Zelinda, andiamo. La Chiesa non lo ammette per niente affatto, non lo ammette. Oh, già, lo so bene. La Chiesa dice sempre così. Anche il prete di Bobbio lo dice. Vorrei ben vedere. Ma anche in Cina, ma anche in Africa. E in tutti i posti anche più sperduti del mondo dove c'è appena un mezzo prete, lo dicono. È giusto che lo dicano. Sono obbligati. Obbligati? Obbligati a che? Poi così. Ma nemmeno un vescovo può cambiarla di un dito, figuratevi un prete. Lo so, padre. La regola la so. Volevo dire che a volte ci sono dei casi particolari. E allora si fanno delle eccezioni. Di scioglimento di matrimonio. Mai, mai. A me hanno detto così. Ma quando? Quando si riconosce che il matrimonio non era valido. O sono casi specialissimi. Come se non ci fossero affatto. Però ci sono. E allora la regola fa un'eccezione e non c'è più peccato. Moserinda, vogliamo scherzare? Ci vogliono pratiche che durano anni e anni, qualche volta 10, 20 anni. Mi spiego. 20 anni? Sì, e anche più qualche volta. E allora, Che cos'è questa storia di matrimonio? La prima comunione non l'abbiamo fatta da un pezzo tutti e due, no? Su, fuori rospo, Zelinda. Ma è possibile essere così cociuti? Continuare per un'altra notte, un'altra ancora, chissà quante altre, a tenervi questo magone sullo stomaco e obbligare il nostro prete a pensare al magone sullo stomaco di Zelinda. Sarà per un'altra volta, reverendo. Per un'altra volta? Ma per un'altra volta? Verrò a trovarla, stia tranquilla. Ah, sì? Va bene, vi aspetto. Tanto con i sassi si ragiona meglio che con voi. Buonasera agli ascoltatori di Radio ZAM. Io sono Luca e questa è Arebur, la seconda puntata di questa seconda stagione. Arebur è, come sempre, una produzione Anthony Perkins Production. Lo spezzone audio che avete sentito all'inizio è tratto da Tempi Nostri, Zibaldone numero 2, un film a episodi del 54 diretto da Alessandro Blasetti. È tratto da un racconto del personaggio di cui ascolteremo questa sera, Silvio D'Arzo, che è il nome d'arte di uno scrittore italiano che è morto giovanissimo a 31 anni, non ancora, cioè 32 non ancora compiuti in realtà, perché era del 20, è morto nel 52, che in realtà si chiamava Ezio Comparoni, anche se questo Comparoni gli viene dalla mamma, perché il suo padre era ignoto. Il povero Ezio, o Silvio che dir si voglia, aveva pubblicato un solo romanzo, scritti dei racconti sconosciuti, sono usciti degli inediti da cui, dopo la sua morte, cui segnalo soprattutto un romanzo per bambini, Penny Wharton e sua madre, ma soprattutto Ezio Comparoni, Silvio D'Arzo, è importante per il racconto di cui avete sentito l'interpretazione prima, Casa d'Altri, il racconto che Montale ha definito il più perfetto, sono parole di Montale, quindi anche il voluto, credo, hanno voluto, racconto del Novecento italiano. Quasi un miracolo di scrittura, secondo Walter Zitti, che sentirete dopo. E quindi continuiamo con gli ascolti su Silvio D'Arzo. Emilia Paranoica! soprattutto la cosa che lascia in tutti un senso di mancanza, come quando accade che alcuni artisti muoiono troppo giovani, che uno si chiede che cosa avrebbe potuto fare se, no? Tipo, non so, se Masaccio non fosse morto a 26 anni, che cosa avrebbe potuto dipingere, visto quello che aveva dipinto fino a quel momento, eccetera. Per D'Arzo la cosa è in certo senso ancora più misteriosa e lascia ancora più rimpianto, perché questo racconto è un racconto singolo, appunto, come dicevo, di una cinquantina di pagine. Lui l'ha scritto nel 1951, un anno prima di morire, di ammalarsi seriamente e poi di morire. Ed è come se lui avesse fatto di colpo un enorme salto di qualità, cioè rispetto alle cose che scriveva prima, un po' inspiegabilmente, come se avesse trovato la sua voce di colpo, e da cose, diciamo, di livello medio, come un paio di romanzi che aveva scritto prima tra il 48, 49, 50, e un po' di racconti, ha scritto anche delle cose per bambini, non male, delle cose favolistiche, e un pochino ha scritto anche di articoli di critica. Insomma, era uno che viveva quasi solo di letteratura, la sua vita è molto povera di avvenimenti, non si sa quasi niente, diciamo, di quello che ha fatto. Ha partecipato alla guerra negli ultimi mesi, poi è stato preso dall'armistizio di sorpresa, come è successo a molti italiani, è tornato a piedi a casa. C'è nel suo diario delle notazioni molto impaurite, perché temeva che quelli della Repubblica di Salò lo avrebbero trovato, avrebbero trovato il suo nascondiglio e l'avrebbero costretto ad arruolarsi, appunto, tra i repubblichini, diciamo. E sono tra l'altro notazioni strane, perché queste note, oltre alla paura, appunto, di essere trovato e costretto a tornare in guerra, continua a chiedere perdono a Dio per tutte le colpe che ha commesso, ma non sappiamo che colpe avesse commesso. Quindi c'è come una specie di senso di colpa che sembra occuparlo tutto, e non si capisce esattamente che cosa significa. Questo senso, appunto, di avere dei conti in sospeso con Dio torna poi, come vedremo, anche nel racconto. Il racconto si fa presto a raccontare la trama, è molto semplice, anche questo povero di fatti. È un prete ancora abbastanza giovane, che arriva in questo paesino dell'Appennino emiliano, appunto nelle montagne di Reggio Emilia, che all'epoca alla fine della guerra, insomma, diciamo nel momento in cui la guerra è finita da poco. C'era una povertà che si tagliava col coltello, la gente non aveva quasi niente da mangiare, molti erano, come dire, legati alla parrocchia, anche perché la parrocchia in qualche modo aiutava le persone povere, ma il prete che c'era prima, con cui il prete giovane ha una specie di piccola conversazione all'inizio, gli dice: guarda, qui la gente pensa alle cose essenziali, al mangiare, eccetera, non ti aspettare che ci siano grandi fedeli con grandi ideali e cose di questo genere, ci sono solo delle vecchie che vogliono assolutamente fare un pellegrinaggio a Loreto e che gli rompono continuamente le scatole perché dicono: ora quando è che si organizza questo pellegrinaggio, eccetera. Quindi lui pensa: qui sarà una noia mortale, ci sono solo delle bigotte, per il resto le altre persone hanno talmente tanto da lavorare e da fare che non hanno tempo nemmeno di venire in chiesa, e io, con tutte le mie voglie di rivitalizzare la parrocchia, eccetera, probabilmente non riuscirò a niente. Quindi parte tutto con un senso di insoddisfazione, diciamo di poche aspettative. Una vecchia va da lui e gli dice: senta, è vero che quando uno si vuole sposare, nel caso dei matrimoni, quando i matrimoni non sono del tutto possibili, è vero che la Chiesa può rilasciare delle dispense speciali? Il prete non capisce, è una vecchia che vive con una capra da sola in questo tugurio, e questo discorso sul matrimonio non ha praticamente senso. Per di più, dei ragazzi ascoltano questa vecchia che fa questo discorso dalla finestra e cominciano a prenderla in giro dopo, gli danno la baia e dicono: questa vecchia si sposa, eccetera, eccetera. E il prete stesso però non capisce che cosa voleva dire. E poi comincia un gioco su cui volevo parlare proprio oggi, perché secondo me è il centro che rende particolarmente straordinario questo racconto. Comincia una specie di gioco a nascondino tra lui e la vecchia, che qualche volta dovrebbero incontrarsi ma non si incontrano, e poi lui va a trovarla a casa ma lei nel frattempo è andata da un'altra parte, eccetera. Per lui diventa un po' un'ossessione capire la vita che fa questa vecchia, che sostanzialmente vive lavando i panni di alcune famiglie che gli danno qualcosa, e lei vive soltanto di questo e dà da mangiare alla sua capra, che mangia appunto l'erba del posto. Finché alla fine, vi dico subito come va a finire perché non è quella la cosa più importante, verso la fine finalmente il prete gli dice: adesso però mi dice cosa voleva dire davvero con quella domanda sul matrimonio. E lei dice: sì, era un po' un trucco, perché questo discorso della dispensa, mi hanno detto che appunto anche quando alcune cose sono proibite, sono dei peccati, la Chiesa può concedere una dispensa. Allora sa, il problema è questo, che io, lei vede, faccio la vita della mia capra, lei mangia l'erba, io mangio l'insalata, ci alziamo tutte e due insieme, andiamo a letto più o meno nello stesso momento, e però le capre vivono poco, vivono molto meno. Io è tanto che sto al mondo e volevo chiederle se lei mi potesse dare una dispensa per finire un po' prima. Inutile, penso, presentarvi e spiegarvi il motivo di Emilia paranoica del CCCP, fedeli alla linea, perché per l'appunto Silvio D'Arso era nato e morto a Reggio Emilia, come dice nel secondo spezzone audio, un personaggio invece che va presentato, che è Walter Ziti, in una lezione appunto su Casa d'Altri di Silvio D'Arso. Era la persona migliore per farvi introdurre questo racconto. Walter Ziti, perché non lo conoscesse, è uno dei più importanti scrittori e critici italiani, ha vinto anche uno premio Strega con Resistere non serve a niente qualche anno fa, e è stato professore di letteratura contemporanea a Pisa all'Aquila, e oramai 40 anni fa è la persona che mi ha introdotto allo studio di Casa d'Altri e di Silvio D'Arso quando sono stato suo allievo nel corso di letteratura contemporanea. Fuori tutto è freddo e grigio, oggi potrebbe essere lunghissimo. Lascia che la gente muoia, non mi importa più di loro, voglio solo riposare. No, buttarmi sulla strada mai. Suicidio. Non voglio dissentire quello che hanno da dire. No, mandarmi giù con loro, no. Ti prego non mandarmi là. sapevo della morte. Ora guarda quei cretini, muoiono in un modo molto strano. Potrei divertirmi anch'io. Suicidi, ma penso che valga la pena di andare. Suicidi, suicidi, suicidi, ma penso che valga la pena di andare. Suicidi. Ma penso che valga la pena di andare. Suicidi. Vi ringrazio tanto, Zelinda. Io mi rompo il collo fino a casa vostra e voi mi chiudete la porta in faccia. E adesso non mi venite a dire che non mi avete visto arrivare, eh? Non lo dico, no, reverendo, non lo dico. Ma il fatto è che la lettera l'ho buttata nel canale. Cosa avete fatto? Per un'altra sciocchezza, non si arrabbi. Buonasera, reverendo. Ah, buonasera, ma neanche per scherzo, ma sarebbe troppo comodo. Ma quella lettera era mia, se la volete sapere, dal momento che l'avete consegnata. È mia, come i miei libri, il mio tavolo. Lo so, lo so. Ma poi ho pensato che certe cose voi non potete capire. Come? E anche gli altri, però. E va bene, io mi metto qua. Ecco, mi metto qua. E poi ci resto tutta la sera, ci resto. E anche la notte. E anche domani, se occorre. Perché sta storia dura da troppo tempo e bisogna finirla, eh? Oh. Certo, lo so bene, il modo da capraio mi piace meno che a voi. Ma quella lettera, se non me la foste ripresa, l'avrei già letta. E ogni cosa sarebbe già a posto da un pezzo, no? Ha ragione. Sentite, Zelinda, qui siamo soli io e voi. Tutti e due abbiamo già un piede nella fossa. Mi sembra che possiamo ben dirci tutto, no? Ma per me è diverso. Per me è tutto diverso. E tutti siamo diversi. Tutte le mattine alzarsi alle 5 e andare giù a Fondovalle con lei per pigliare gli stracci. A mezzogiorno un po' di pane con l'olio. E poi ritornare su, al canale, a lavare, lavare finché ci si vede. Poi tornare qui a casa, sempre con lei. E poi a dormire, tutte e due, lì dentro. E il giorno dopo fare lo stesso. E anche l'altro giorno, e tutti i giorni della vita. La sola differenza tra noi due è che lei mangia l'erba e io il pane. Solo che lei... Quanto può stare al mondo una capra? Una capra? Come sarebbe? Non lo sapevo. Beh, non più di 20 anni. Ecco, 20 anni e basta. Io ne ho 63 quest'inverno. Diceva solo questo la lettera? Oh no, questo chiunque lo sa e non vale la pena di dirlo. Pare anche a me. Allora, Zelinda, ancora un po' di coraggio. Mi avete già dato il dito, datemi anche la mano, che io sono qui proprio per allungarvi la mia. Ecco, allora volevo dire, io sono stata serva di Maria. Sono andata fino a Loreto in pellegrinaggio, è tutta a piedi. Ho fatto sempre quello che Dio dice di fare. E di peccati grossi non ne ho mai fatti. Lo so bene, Zelinda, è evidente. E così pensavo che adesso un piacere Dio potrebbe anche farmelo. Fare un'eccezione alla regola. E che allora non sia più peccato. Ma quale peccato, Vergine Santa? Ecco, lo vede che si arrabbia. E poi lo so che non mi dirà mai di sì, neanche per tutto l'oro del mondo. Ma anzi, Zelinda, per ogni domanda c'è sempre la sua risposta. Tutto sta nel saperla cercare. E in due si cerca meglio, non lo capite? D'accordo. Bene. E io glielo dico. Ma però lei si volta in là e non mi guarda mai in faccia. Oh, ecco, nella lettera c'era scritto che io non volevo fare offesa a Dio in nessun modo, ma siccome il mio era un caso speciale, senza fare dispetto a nessuno. Chiedevo. Senza fare dispetto a nessuno, chiedevo. Se in qualche caso speciale, diverso dagli altri, qualcuno può avere il permesso di finire un po' prima. Come? Anche uccidersi, sì. Uccidersi? Ma cosa dite? Dio mio, ma siete pazza! Non sapete che la vita è un dono di Dio! Un dono di Dio, capite? E che dunque non apprezzo, anche se non lo comprendiamo. Ma perché piange, padre? Io l'ho sempre vista come una cosa senza importanza. Una mattina, quando esco di casa, invece di fare un passo in là, lo faccio in qua. Mi trovo dall'altra parte che non me ne accorgo nemmeno. Per quel che vale la mia vita, men che niente. Ma che cosa? Meno che niente. A che serve la vita, padre? Ma che cosa volete capirne voi della vita? Voi della vostra, io della mia. Non c'è nella vostra, nella mia. C'è la vita! Allora, l'ipotesi che volevo discutere con voi questa sera, un'ipotesi di lettura, è questa. Cioè che io ho l'impressione che questo romanzo sia in un certo senso troppo perfetto anche per il suo autore. Torna tutto. Cioè è un racconto dove veramente sembra che non ci sia una parola fuori posto. Mentre era uno che, insomma, di errori ne faceva tanti prima. E quindi mi sono chiesto, ma che è successo? Cioè perché di colpo ha imbroccato questa cosa e non sbaglia un colpo? E mi sono detto, forse perché lui lì dentro ha raccontato qualcosa che lui stesso non sapeva di voler raccontare. Cioè lui ha creduto di raccontare una storia di povertà, ha creduto di raccontare la storia di due solitudini, la solitudine del prete che è andato lì in questo paesino da solo e questa povera vecchia che vive solo con la capra. Ha creduto fondamentalmente di raccontare una storia di disperazione. In realtà ha raccontato una storia d'amore. E ho cominciato a andare a cercare dentro al testo se ci sono i segni e i sintomi di questa storia d'amore e credo di averli trovati. Storia d'amore ovviamente tra il prete e la vecchia, che però nessuno dei due, neanche lontanamente a livello consapevole, la prende come una storia d'amore naturalmente, ma nel testo ci sono tutti gli elementi di cui è fatta di solito la storia d'amore. Quindi mi sono preso un po' di note che riguardano appunto alcuni particolari del testo, quelle cose che sembrano nemmeno calcolate ma che in qualche modo creano come una rete di spiegazione. Allora, intanto c'è il primo incontro, che è classico nelle storie d'amore, no? Il primo incontro è un incidente casuale. Il prete sta camminando per un sentiero e un sasso scivolò giù fino in acqua, ma la vecchia nemmeno se ne accorse. Quindi in questo momento, diciamo così, l'amante vede l'amata, ma l'amata non si accorge di nulla, è ancora del tutto inavvertita. Questa cosa qui, questo del sasso in acqua, 20 pagine dopo, diventa un segno di intesa, perché a un certo punto, mentre lui la sta andando a cercare, e non la vede, non la trova lungo il fiume dove di solito la vede, lei lascia cadere apposta un sasso e il prete dice: allora questo è un vero segnale di intesa, è un messaggio con tutte le regole, dice a un certo punto il prete. La prima cosa che lui nota, anzi all'inizio con una specie di finta svagatezza, dice che di queste vecchie ce ne sono tante in questo paese, no? Dice: se vi affacciate un momento in strada, tutto il più riuscirete a trovare, dice, vabbè, il paese è disabitato, non c'è quasi mai nessuno, se vi affacciate un momento in strada, tutto il più riuscirete a trovare una vecchia a soffiare sul fornello, sempre che abbiate fortuna, o una capra. Quindi sembra che all'inizio queste vecchie con le capre ce ne siano tante, però quasi subito gli dicono gli altri che questa è diversa, intanto perché abita fuori dal paese e poi perché non si fa vedere quasi mai e poi perché dicono parla una lingua che non si capisce bene, parla una lingua un po' strana rispetto agli altri del paese, forse viene da un'altra parte. E c'è un elemento di favola. Lui incontra un ragazzo e gli dice: ma mi fai capire qualcosa di più di questa vecchia, ti regalo una pelle di coniglio, che per allora era molto preziosa perché si facevano appunto i guanti, le cose eccetera. Il ragazzo non riesce a trovarla, gli regala una seconda pelle di coniglio, il ragazzo non riesce a trovarla, alla terza pelle di coniglio, il numero 3 naturalmente è il numero di tutte le favole, finalmente il ragazzo gli dice: la vecchia abita lì, eccetera. eccetera. Perfino questa capra, che è una sua scorta indivisibile, cioè non si vede mai lei senza la capra, a me mi ricorda le compagne dell'apparizione stilnoviste, no? Beatrice non è mai da sola, c'è sempre una compagna accanto a lei, no? C'è sempre qualcuno con lei. E poi comincia qualcosa di un po' più specifico, c'è quello che io chiamerei la paura mescolata a desiderio che sempre ha l'amante nel momento in cui sta per avvicinare la persona amata. Dice a un certo punto: a neanche due passi dall'argine mi auguravo di non trovarcela più. Lui va a cercarla, ma poi quando è lì vicino ha un po' paura che lei ci sia davvero. Ma una sera che lei cambiò posto e sul momento non riuscivo a vederla, fui lì per gridarle qualcosa. Quindi la cerca e non vuole trovarla contemporaneamente, perfino con una specie di sadismo. Mi sarebbe piaciuto poterle farle anche un po' male. Poi si spaventa di questa cosa perché non capisce cosa gli ha preso e vorrebbe lasciarla perdere, dice: ma è una vecchia come tante, ma perché me ne interesso così tanto? Però dice: il fatto è che ormai era troppo tardi. E dice anche: un paese che brucia è soltanto un paese che brucia, una guerra è soltanto una guerra, ma la vecchia là in fondo al canale era proprio qualcosa di più. E anche lì non si capisce perché questa vecchia in particolare debba essere qualcosa di più. Ecco, quindi avete sentito nell'ordine il suicidio di Fausto Rossi quando ancora si faceva chiamare Faustò, il perché lo capite facilmente, perché Casa d'Altri parla proprio di questo, di un annunciato suicidio, della richiesta se è possibile fare suicidio senza commettere peccato per la Chiesa Cattolica. Poi un altro spezzone tratto sempre dal film Tempi Nostri, in cui c'è la discussione tra il parroco e Zelinda. C'è qualcosa di diverso in questa riduzione cinematografica: il parroco è uno anziano interpretato da Michel Simon, e c'è un finale edificante che io non vi ho fatto sentire e che trovo francamente fuorviante in assoluto con lo spirito del racconto. In ultimo, avete sentito anche la curiosa tesi che ha Walter Zitti su questo racconto, la sua possibile chiave di interpretazione, che però insomma non mi sembra così strampalata come parrebbe da un primo momento, via, diciamo così. Ci siamo dilungati tanto ovviamente su Casa d'Altri, perché questo è il capolavoro di Silvio D'Arzo tra le pochissime cose che in realtà ha scritto, e però ha scritto anche delle altre cose, e noi chiuderemo con una lettura appunto di un racconto che si chiama Alla giornata, legge Walter Zanardi. Vi saluto e vi do arrivederci alla prossima puntata. Prima di Ulisse contro tutti, poi di Arebur, sempre qui su Radio ZAM. Buon proseguimento. Alla giornata. All'improvviso, dai sentieri dei pascoli, ma ancora molto lontano, arrivò l'abbaiare di un cane. Tutti alzammo la testa. E poi di due o di tre cani, e poi il rumore dei campanacci di bronzo. Chini, attorno al saccone di foglie, al lume della candela, c'eravamo io e i tre soldati, e qualcosa come sei o sette donne e anche più. E più in là, ma nell'ombra, ce n'era anche qualche altra, e il maresciallo e il ragazzo, e tutti quanti, con gli occhi fissi sul sacco. Mai assistito a una lezione di anatomia? Bene, la stessa cosa per noi, in certo senso. E quasi tutto il solaio era al buio, e tutto quello che si poteva vedere erano le nostre 12 facce, attaccate l'una all'altra come davanti a un presepio, e quel saccone di foglie, e un pezzo di muro annerito dal fumo, e un pezzo di trave annerito anche più. «Sentito niente, voi donne?» dissi io, alzandomi subito in piede. «Sì, ma niente tedeschi», ci rassicurò con dolcezza la vecchia. «Sono i nostri uomini e basta». E lentamente si fece largo fra noi per andare ad aprir la finestra. E io le fui subito dietro, con la candela alla mano. L'aria intorno era viola, e viola i sentieri, e le erbe dei pascoli e i calanchi, e le creste dei monti. e nel primo buio lontano vedemmo scendere al borgo 4 o 5 lanterne. «Sì», disse ancora la vecchia, «sono loro che scendono dai pascoli e fra 20 minuti sono qui». Era vero, e così respirai, e lei e io tornammo in mezzo alla stanza. «Bene», dissi io, «i vostri uomini stanno arrivando e fra 20 minuti sono qui, e noi adesso possiamo anche andarsene. Così voi non dovrete più starvene sole qui dentro». Tutte le donne si guardarono in faccia e mormoravano qualcosa fra loro. «Non aspettate qui i nostri uomini?» domandò preoccupata la vecchia. «Neanche 20 minuti, sapete?» «Comandante, ascoltate», disse un'altra nell'ombra. «Si sentono già le peste sull'erba». «No, no», dissi, prendendo lo zaino. «E ci dispiace, sul serio. Ma il fatto è che anche 20 minuti sono già qualcosa per noi. 2 chilometri e più, si capite? Ma adesso niente paura. I vostri uomini stanno arrivando e così voi non dovete più starvene sole qua dentro». «E a disagio», accennai al paglierizzo. «Allora avanti, ragazzi». «Va bene», si rassegnò allora la vecchia. «Questa sera noi lo laviamo, gli facciamo la barba e lo cuciamo dentro il lenzuolo. E a seppellirlo ci penseranno loro domani». «Questa è una buona cosa», dissi io imbarazzato. «I commiati non sono mai stati per me. E questo era tale da impacciare un francese. Avevamo picchiato a una porta mai vista, con un moribondo in spalla. Ci lasciavamo un morto e adesso, ecco, sparivamo per sempre. Sì, questa è un'ottima cosa. E anche lavarlo. E anche fargli la barba. E grazie, anche del formaggio e di tutto. Ti verrà buono il vostro formaggio di capra». Pensai che sorridere un po' non dovesse guastare per niente. E anche quelle sorrisero. E tutti quanti scendemmo da basso. Sulla piazzetta di sassi non c'era nessuno. E si sentivano solo i calci dei muli dentro le stalle e il rumore dei morsi di ferro e la tosse di qualche bambino. E per di più, cominciava a far freddo. «È di qua, dite, che di notte si sente il cannone?» Le donne fecero di sì con la testa, tutte ferme sul gradino di casa, dove di giorno s'accende il fornello. E noi prendemmo la strada di monte. I 3 soldati davanti, e poi io, e poi il maresciallo e il ragazzo. «Ehi, ma il nome?» ci chiamarono quelle dal basso. Dal sentiero ci voltammo a guardare. «Sì, che nome?» disse a disagio la vecchia, accennando con la testa all'insù, alla finestra illuminata ed aperta. «Una parola, capite? Quanto al nome, ne sapevamo anche meno di lei ed ogni altro. Era scappato dal treno con noi, 2 minuti prima di entrare in stazione, e un tedesco gli aveva sparato. Dal vagone di coda, ecco tutto. Mettete 4° deposito, dissi. 4° deposito, sì», insisté con pazienza la vecchia. «Ma che nome e cognome mettiamo?» «Per adesso 4° deposito, dissi. 4° deposito e basta. Per adesso può bastare così». Ma una vecchia, e per giunta di monte, se ne stava lì sulla strada come aspettando il suo soldo, e anche le altre se ne stavano là, ferme ancora sul gradino di casa. Si fece avanti l'allievo ufficiale. Sì, avrà avuto 20 anni. E poi forse neanche 18. 18, a ogni modo, è l'età che si meritava. E fatta eccezione del suo diagonale, impossibile imbattersi al mondo in qualcosa di più nuovo di lui. «Mettete Riccardo Fineschi!» gridò. «Allievo ufficiale Fineschi!» E ripigliammo ad andare. E quando fummo alla prima prata dei pascoli, davanti a noi già s'alzava la luna. «Bene», dissi io sorridendo e gli allungai il mio coltello da tasca. «Eccovi ad ogni modo del ferro». E mi guardò come un incomprensibile idiota. «Ma perché non sceglierne un altro?» dissi io. «Sì, perché il vostro?» insistei. «Perché proprio il vostro nome, fra tanti?» «Già», disse con negligenza il ragazzo. «Perché?» E sorrise in modo sciocco e non sciocco. E nessuno sarebbe riuscito a capirci qualcosa. «Perché proprio il vostro, fra tanti?» «Sì, forse è meglio così», disse lui. come levarsi lo zaino, ma ancor di più, senza nemmeno confronto, e continuò a camminare. Io lo guardai per un po', e poi le montagne d'intorno, dove c'erano i posti tedeschi, e i paesi di valle, dove c'erano altri tedeschi, e poi quei cinque in fuga sul sentiero dei pascoli. Ed ero lì lì per cominciare a capire. Sì, 18 anni, è evidente. Senza dubbio, la più giovane cosa del mondo. O anche la più vecchia. Chissà. Arebur,